Jean-Marie. Ciao Marco, buonasera. Eia, oggi presto stai chiamandomi. Noi stiamo mangiando adesso una cosa piccante, stiamo mangiando chili con carne. Caspita, poi calda, mamma mia. Ti dà ancora più caldo, perché sia perché è piccante sia perché è calda. Oggi la giornata è visto abbastanza buona. Propagazione meno, almeno si riesce a parlare a Sassari senza propagazione. E infatti la si intende poco venne propagazione. Ui. È forte pure. No, mai ai livelli di quel giorno di pioggia, mai. Quel giorno era incredibile, arrivavano Santiago 9, 10, 9, 15. Era una cosa, giù mai non sentivo voi. Vabbè, quei giorni lì, quando piove, è peggio, te la porta a porta la propagazione. È strano, è tutto strano, Vabbè, Torre, da, casomai ci sentiamo più tardi, adesso finiamo di mangiare. Sì, ok, buon appetito, Marco, ci sentiamo. Aspetta che ha parlato uno sotto di te, avanti, che chiama. Non sarà propagazione, no? No, forse perché c'è, come si chiama, non mi mettere il nome, un coso nell'altro, nel PMR. Vabbè, da, a più tardi, da, ci vediamo più tardi, ciao. Sì, ok, ciao Marco. Hola. Attenzione, Battiglio. Battiglio. Battiglio. Oggi tribula è. Sì, non ve nessuno. Ehi, fra poco poi c'è la partita. Peccato che l'Italia, poi, non è l'Italia mondiale. Sento propagazione discreta anche. Poi sto facendo qua delle piccole cosette manuali. Sì, nel 34 mi sembra che c'era Gianni, doppio RU. Io l'ho sentito al 36, prima, mezz'ora prima almeno, facendo di ex. E io invece l'ho sentito nel 34, era. Eia, tu l'FM ce l'hai? Che ce l'ho l'FM? È buona sapersi, dai. Casomai, se faccio in tempo, dopo facciamo una prova veloce. Sono qua. Diglielo a questi, mi faccia l'FM, diglielo, oh babuini! Sì. Facciali cantare a quelli. Ci sei 1, 2, 3, 4, 5. Attenzione, Torre Squalo. Dimmi Marco. Ehi Torre, puoi passare in FM un attimo? Che mi dai un controllo e sto tirando una cosa. Attenzione Battiglio, sì. Attenzione signor Battiglio. Signor Battiglio, dice tu, batti un colpo. stai uscendo, Attenzione, signor Bacchisio. Basta da vedere tanto se stai uscendo. Beh, nulla. Adesso sì che stai uscendo. Oh, e quindi non riesci a mettertela a posto. Allora c'è che non stavi uscendo, però quando mi ha chiamato non stavi uscendo. Ok, ciao Bacchi, alle prossime, ciao ciao. Ok, ciao Bacchi.